Questo è il luogo dove le preghiere vengono ascoltate e qualche volta esaudite. Noi chiamiamo questi alberi Utraya Mokri, l'albero delle voci, le voci dei nostri antenati. Li sento. Loro vivono, Sheik, dentro Eiwa. Tu sei Omatikai adesso. Potrai costruire il tuo arco con il legno di albero casa. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Per me ci vuole tempo, bisogna eliminare la velocità nell'ascolto della musica per goderne a pieno delle vibrazioni, dei sentimenti. Tutto torna a posto, sono di nuovo nel mio mondo. La velocità sparisce come neve al sole e la musica torna a farmi emozionare per davvero. Storie di vecchi dischi e di alberi secolari, in una puntata tutta dedicata al vizio dell'eccesso di velocità. Quello che ho appena chiamato come vizio dell'eccesso di velocità è uno che, diciamo, è un vizio che noi qui in redazione Linee d'Ombra abbiamo deciso di identificare come uno dei nuovi vizi capitali. Capitali non lo sappiamo, però vizi probabilmente sì. L'abbiamo già raccontato, abbiamo già di fatto effettuato delle puntate con storie che parlavano dell'eccesso di velocità. È molto semplice, si capisce anche semplicemente dalla definizione in sé, non bisogna spiegarlo. Però l'idea è quella che oggi si faccia molta fatica a prendersi un pochettino più di tempo per le nostre cose. Addirittura l'altro giorno parlavo con un amico del fatto che quando lui ha dei tempi morti dovuti all'attesa di qualcosa, cioè qualcosa per cui non se ne può andare, tipo va a far aggiustare una cosa e gli dicono guardi tra 20 minuti gliela restituisco, oppure va a prendere la figlia fuori da scuola, la figlia ritarda un po' e lui ha 10 minuti e un quarto d'ora lì d'attesa dove non può fare altro, e lui mi diceva oh, quei minuti lì sono preziosissimi, mi sembra di godermi come mi godo poche altre cose vita mia, come addirittura non mi godo certe cose che mi fanno piacere, tipo che so io, il mare, la montagna o le cose che abitualmente facciamo nel nostro tempo libero. Ecco, questo racconta un pochettino il tema e il vizio di oggi, cioè il fatto che addirittura quando ci si aprono delle piccole smagliature spazio-temporali, direi temporali più che spaziali, nella nostra giornata, nella nostra quotidianità ne godiamo, e quindi evidentemente forse facciamo fatica a rallentare. E per raccontare questo nuovo vizio capitale oggi abbiamo due storie, ne abbiamo sempre un pochettino di più alla fine tra quelle che ci arrivano e quelle che vi raccontiamo. Però partiamo dalla storia che ci ha mandato Alessandro, che è una storia che parla di vecchi dischi. È molto divertente la sua storia perché è come se lui facesse una missione di colpa. Lui più di una volta ripete lo so, so che c'è la gente che mi dice ma sti dischi, ma quando mai li ascolti, oppure lo so che rischio di essere quello che era meglio quando si stava peggio. Non è così, semplicemente mi piace fare quella cosa lì, cioè ascoltare la musica in un certo modo, che ha a che fare con la lentezza e con la qualità del suono. E poi andiamo da un'altra parte, come sempre facciamo, e stiamo con un uomo, un giovanissimo uomo, che fa un mestiere in cui la lentezza c'entra non solo per l'attenzione che devi mettere nel fare le cose, ma perché ha a che fare con forse con le forme di vita che ci mettono più tempo a crescere e che della lentezza fanno, direi, proprio una ragione della loro esistenza. Sto parlando delle piante, sto parlando degli alberi, e il protagonista della storia è un arboricoltore. Ci racconterà una storia ben precisa durante la quale va in Nuova Zelanda e si arrampica. È anche un tree climber, sono quelli che si arrampicano sulle piante, che di solito si arrampicano per farci dei lavori con quelle piante. E lui, Pietro, che è il protagonista di questa storia, ci racconta cosa si prova ad arrampicarsi sulla pianta più alta della Nuova Zelanda, in un episodio che vi racconteremo all'interno di questa puntata. Quindi cominciamo, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Ho deciso di raccontarvi la mia storia e l'ho fatto di getto. Scrivo in merito a quello che giustamente avete chiamato uno dei nuovi vizi capitali, la velocità, l'eccesso di velocità. La mia semplice storia parte dal mio amore sconfinato per la musica rock, mi accompagna da sempre. Adoro il suo potere evocativo e le corde più nascoste che talvolta riesce a toccare. Insomma, non saprei farne senza. Faccio un passo indietro. Ho 53 anni, IVA inclusa. Sono quindi figlio del vecchio modo di ascoltare la musica, il vinile, il cui sacro contenuto sonoro finiva poi obbligatoriamente sulle musicassette da regalare come pegno d'amore di solito, o da ascoltare su quei vecchi e ingombranti stereo in spiaggia o semplicemente all'aperto. A proposito di musicassette, il mio sport preferito era il rubare i brani giusti dalle radio libere, quelle che trasmettevano solitamente in tarda serata, e il genere da me preferito all'epoca era il punk o la new wave. Registrare un brano giusto equivaleva a trovare un tesoro da esibire con il petto gonfio agli amici rocchettari. Lo so, sono cose trite e ritrite, ma per me sono sacre. In quel periodo la musica era musica quella che ascoltavi nelle radio private e della quale leggevi nelle riviste, nelle poche riviste che trattavano la materia. La materia in questo caso, nel mio caso, era quella della new wave o del punk morente in quel periodo, quindi io ho cominciato a farmi le ossa in quel periodo. Parliamo della fine anni 70, primissimi anni 80, quindi il periodo proprio in bilico è quello lì. Poi la vita va avanti, arriva una meravigliosa famiglia che apre un nuovo capitolo. I dischi man mano si alzano nella scaffalatura del salotto fino ad arrivare all'ultimo pianale in alto, pronti a raccogliere più polvere possibile. Ogni ospite che entrava in casa e che casualmente metteva gli occhi su quei vecchi vinili pronunciava sempre le stesse parole. «Belli, ma li ascolti ancora?» La frase equivaleva ad una pugnalata dolorosissima. Poi arriva il supporto sonoro del futuro alla portata di tutti, il CD. Tutti ce ne abbuffiamo. Le mogli sono felici perché occupano poco posto, noi ottimamente soddisfatti dalla praticità, ma qualcosa comincia a venire meno. Io l'avverto subito. Per fortuna ci sono ancora le mie compilation registrate dalle radio, alle quali davo titoli improbabili, tipo Autumn 1983, o Music Party, o Punk Cassetta, Hoping Sun, tutte con fondamentali errori di inglese. Poi però il mangiacassette in auto passa di moda e passa di produzione. Arriva il lettore di CD, che non fa saltare le canzoni. Ottimo. A me però le cose continuano a non quadrarmi. Con quel maledetto tasto puoi passare velocemente da una canzone all'altra e si comincia a perdere la continuità di un album che in fin dei conti era la magia. Velocità sembra incominciare ad essere il diktat. Intanto i figli crescono e io aggiungo anni ed IVA alla mia carta d'identità. E con questo anche il modo di ascoltare e di fruire musica cambia. Scoppia il download e allora siamo tutti lì a scaricare migliaia di file che poi non ascolteremo mai, o almeno in questa vita. In compenso siamo contenti e soddisfatti di avere enormi discografie complete in un disco fisso che poi non so neanche come sia e dove si trovi di preciso. Chi diavolo sei tu, disco fisso che tieni tutta la mia musica? Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. If it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Il CD praticamente muore, dopo neanche un ventennio di mal sopportazione da parte mia, e alle esequie parteciperanno in pochi. Comincio ad essere insofferente, sento che sto mettendo a rischio il mio rispettoso amore nei confronti della mia musica. Devo capire come fare. La velocità impera a scapito del piacere sino all'ultima frontiera dell'ascolto che coincide, per me, con l'anno zero. File, non brani, supporti che non esistono, Spotify, roba varia. In un niente puoi avere tutta la musica e in pochi secondi decidi la sorte di un artista o di un album con un touch. Insomma, non fa per me. Io sono arrivato, voglio scendere dalla navicella che procede alla velocità della luce. Una decina d'anni fa, quasi casualmente, in una vettura commerciale usata che compro, noto che c'è ancora un mangiacassette impolverato ma ben funzionante. Comincio a riascoltare le vecchie compilation che sembrano riprendere vita dopo quasi 30 anni, facendosi ascoltare ancora molto bene a livello sonoro. Quanta dignità sfoggiano. Riscopro una velocità ridotta che mi permette di godere a fondo la mia musica. Sì, ok, ogni tanto qualche avanti e indietro me lo concedo, ma diventa sempre più raro. Mi sento davvero meglio. E ciò mi fa passare più dolcemente i lunghi viaggi che compio per motivi di lavoro. Da un vecchio negozio di prodotti elettrici che sta chiudendo compro uno stock di cassette vergini, C60, C45 e alcune C90. Poi, furbescamente, acquisto una scala con un bel design, così da fare contenta la mia amata dolce metà, con lo scopo di avere un veloce accesso ai miei amati vinili d'epoca, relegati là, nell'ultimo scaffale. Mia moglie lo tollera, perché tollerando me deve tollerare anche questo, che fa parte di me, quindi è una parte di me che ha dovuto accettare. Ma è anche contento perché tu mi occupa del tempo, io sono meno in mezzo alle scatole, questa è la verità. Le cose procedono in maniera naturale. Riprendo un rito che mi mancava da un bel po', ovvero la registrazione di compilation dai miei dischi, tutto eseguito in modo molto accurato. Avete presente la scena di Alta Fedeltà, il film di Nick Hornby, dove il protagonista spiega come deve essere composta una compilation? Ecco, in quel preciso momento io sono quello lì. Tutto torna a posto. Sono di nuovo nel mio mondo. La velocità sparisce come neve al sole, la musica, la mia musica, torna a farmi emozionare per davvero. Lo so, passerò per un vecchio trombone, per uno di quelli che ostenta sempre il solito ai miei tempi era meglio, ma non è così. Credetemi, sono contento che le cose vadano avanti in tutti i campi dell'intrattenimento. Io ne godo i benefici tutti i giorni, ma per la musica ho scelto la non velocità e, se volete, la bassa fedeltà. Ora sto davvero bene. Leaves are falling all around. Time I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged. Such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moon lights my way. Now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Sometimes I grow so tired, but I know I've got one thing I got to do. Ramble on. Now the time is now. See myself. Ci sono delle storie che ci arrivano qui a Linea d'Ombra che sono, diciamo, generazionali. Tiziano Bonini le definirebbe assolutamente generazionali, nel senso che rappresentano un mondo che appartiene a delle persone che hanno certe fasce di età. La storia di Alessandro è pienamente dentro questa categoria, è chiaramente una storia super generazionale e avete capito perché. Oppure, se siete troppo giovani, forse non avete proprio capito. Pronto, ciao Alessandro, buongiorno. Ciao, ciao, complimenti a tutti per la trasmissione. Io sono un vostro fan quasi sfegatato. Grazie mille, grazie per il quasi sfegatato. Alessandro, ad esempio, tu hai dei figli, giusto? Sì, sì. Quanti anni hanno? Hanno una ventina d'anni, cioè 20, 22 anni. Quanto capiscono loro di questa tua passione? Quanto ti seguono? Quanto ti deridono? Ecco, più che altro l'ultima. Un giorno lui mi ha detto: ma cosa sono quei strani CD neri grossi che tieni da dentro, là in cima? I CD sono gli LP. Sì, sì, cos'è quella roba strana che tieni là sopra? Io, se vai a spiegare. Sì. Poi quando mi vedono fare le compilation si girano dall'altra parte, ridono, ma io li amo lo stesso. Scusami, questa cosa delle compilation mi eccita tantissimo. Cioè, esattamente come fai a fare le compilation? Dal giradischi, guarda, scegli un brano e lo passi su una cassetta? No, la cosa purtroppo per me è molto più complicata, okay. PSO. Nel senso che io sono uno che ho questo rapporto maniacale con i ricordi, con la musica. Faccio delle compilation in base anche alla stagione per ricordarmi certe stagioni della mia vita, il potere evocativo della musica. è una roba che magari se hai uno bravo che mi possa curare posso anche migliorare, ma è tutto legato ai ricordi, tutto legato alle, a certe stagioni della mia vita. Faccio le compilation, ad esempio adesso ne ho fatto una che riguarda l'inizio del 1980. In cui cosa c'è? Cosa c'è dentro? Ah, beh, c'è tutta la musica di quel periodo, ci sono i Mac, quelli che poi fecero mai Sharon, ti ricordi? Certo. Ci sono i Ramones, che io chiamo ancora Ramones perché per me Ramones è Ramones, roba, certo. Roba. E poi c'è roba anche un po' più leggera, che passava alla radio. Preso dai dischi dell'epoca, perché mi piace comunque risentire il rumore anche sporco del disco. Ho ricomprato i CD di quei dischi lì, ma non è la stessa sensazione, no, no. Senti, Alessandro, quanti dischi hai? Io ho circa 500 dischi e un 245 giri e circa un centinaio di cassette, tutte tenute in condizioni, diciamo così, rispettosissime. Non avevo dubbi. Da un punto di vista tecnico, perdonami, perché io ricordo che quando eravamo piccoli e guardavamo il Festival di Sanremo con i miei genitori, noi registravamo dalla televisione, cioè avvicinavamo un grosso registratore, schiacciavamo rec e play, quando partiva, signore e signore, canta Marcella Bella, e partiva il registratore. E noi poi ci ascoltavamo queste cassette, sì, quindi altro che lo file. Tu esattamente come fai a passare le compilation? No, beh, io da disco vado su cassetta adesso. Ok, quindi entra direttamente. Perché ho il mangiacassette in macchina e ne ho un paio di riserva a casa, perché non si sa mai, come diceva mia nonna, non si sa mai. Quindi io non si sa mai, certo. Ma ad esempio adesso sei in macchina tu in questo momento? Sì, sono in macchina. Che cassetta hai dentro il mangiacassette? Una adesso compilation. Una cassetta, per la ragione, ho una compilation del 1985. Con tutta roba tipo, ma puoi farcela sentire, se la inserisci ci fai sentire il rumore della cassetta? Io, se vuoi, ci provo, sentiamo. Però la qualità sarà quella che è. Aspetta un attimo, perché qua siamo in condizioni di precarietà, eh. Allora, dai. Sto andando, senti, non so se senti il rumore macchinoso, qualcosa lo percepisco, perché poi devi... Eccola qua. Questo è un gruppo proprio di quel periodo, si chiamavano Wire Train, che li conoscevo io qua, che mio amico spiegato. Prova a alzare un pelo, prova a alzare un pelo. Sì, aspetta, perché devo accendere la macchina per far andare, qua siamo in condizioni ancora. Benvenuto nel 2020, Alessandro. Siamo in condizioni molto, molto... La macchina è un diesel dell'86, quindi adesso per accendere bisogna aspettare le candelette. No, io qua c'ho una macchina a metano e che gialla, ben visibile, sono... Perché hai paura che ti centrino? Sì, poi voglio che la gente mi saluti quando passo. Certamente. Senti, Alessandro, dai, ti lascio andare, volevo sapere che lavoro fai, visto che sei spesso in giro. Io lavoro per una ditta zootecnica, lavoro in ambito quindi zootecnico, ho tutti i miei clienti produttori di latte di parmigiano reggiano, che saluto con molto amore, e io sono tra l'altro un golosissimo del parmigiano reggiano, quindi questo rientra tutto nelle mani mie mentali. Ma però mi sembra una persona godereccia, a noi piacciono le persone che si godono la vita. Dai, quindi un emiliano, ma infatti, provinciale. Mi dici esattamente di che parte dell'Emilia? Io sono nato in provincia di Modena, nell'Appennino modenese, e fino a 27 anni ho vissuto lì, ho frequentato il bar del paese, e su questo ti potrei raccontare una storia, un giorno, e questa è una minaccia. Un giorno me la racconterai. Dimmi dove vivi. E abito in provincia di Bologna. Provincia di Bologna, va bene. Alessandro, starei ore con te, ma devo darli alle borse, quindi ti saluto e ti abbraccio forte. Grazie mille. Ciao, complimenti a tutti, siete bravissimi. Ciao Alessandro, grazie mille. Sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Queste canzoni. Torna Come nasce una canzone. Questa volta andiamo alla scoperta dei grandi classici della musica italiana, con gli autori, i compositori, gli arrangiatori, i produttori, insieme a me, Marta Cagnola, ogni mercoledì una nuova puntata, in esclusiva, in podcast, sul sito e sulla app di Radio 24. No, è bella mamma, non è questa. Sì, suggestiva, sì, ma non è nemmeno questa. Eccola, questa sì che è la vostra imprescindibile colonna sonora, da ascoltare quotidianamente per avere a fine giornata un quadro chiaro ed esauriente di ciò che di più importante è successo in Italia e nel mondo. Effetto Notte di Roberta Giordano, dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E dopo la storia e i racconti di Alessandro in questa puntata dedicata al vizio dell'eccesso di velocità, la prossima che vi raccontiamo è quella di un viaggio in Nuova Zelanda alla scoperta delle piante più antiche e imponenti del mondo. L'ha raccontata Pietro Moroè nel suo libro che si intitola La timidezza delle chiome. Pietro, ve lo dicevo in apertura, è un tree climber, cioè uno di quelle persone che tramite sistemi di corde, imbraghi, si arrampicano sulle piante per lavorarle, le piante. È un arboricoltore ed è giovanissimo, ha poco più di 20 anni. E in questo libro ha raccontato quanto la vita delle piante dipenda strettamente dal tempo che l'uomo concede loro. Una piccola grande lezione di lentezza. State con noi. Le piante della Nuova Zelanda hanno sempre dato un legno ricchissimo e nobile. Quindi anni fa sono state letteralmente abbattute in massa. La Nuova Zelanda è stata rivoltata come un calzino. Quello che vediamo oggi non è altro che il risultato di una politica di tutela e di recupero attuata dopo quella distruzione, quindi tutte le piante sono state ripiantate. Sono stato in Nuova Zelanda nel 2013 per vedere gli effetti di quella distruzione e del successivo recupero. Devo dire che i miei occhi di turista arboreo si sono trovati davanti a una visione incantevole. Continuavo a ripetermi che quello che vedevo era tutto artificiale, era completamente ripiantato, ricostruito. Migliaia di ettari di foreste ripiantate dall'uomo. Niente, era comunque stupenda. Il viaggio lo feci insieme alla mia famiglia e aveva in sostanza tre obiettivi: trovare il Kauri e il Totara più antichi, due piante antichissime, e con un po' di fortuna anche la pianta più alta della Nuova Zelanda. Entrare in una foresta di antichi cauri non è come fare una passeggiata per i nostri boschi. Lì vigono regole molto severe. Sono state costruite delle passerelle sopraelevate per far sì che i visitatori, camminando, non compattino il suolo. E nelle zone più vecchie bisogna addirittura pulirsi la suola delle scarpe per evitare di introdurre degli agenti patogeni. Non esistono in natura piante fragili, e se l'ecosistema non fosse stato devastato, oggi la foresta avrebbe tutte le risorse necessarie per combattere i patogeni che la minacciano. Purtroppo, vista l'affluenza di visitatori e i controlli costanti da parte dei ranger, abbiamo dovuto rinunciare all'arrampicata su questi patriarchi di oltre 2000 anni di età. Ci è invece andata meglio con la pianta più alta della Nuova Zelanda. Ci siamo mossi la mattina alle 5 verso un parco di sequoie che avevamo già individuato e misurato da terra la sera prima. Il nostro obiettivo era salire sul lato esterno, per cui molto esposto. Bisognava arrampicarsi rapidamente, avendo cura di non lasciare nulla a terra, per non destar sospetti. Alle 7 eravamo in cima ad un'altezza di oltre 68 metri. Non sono tuttora convinto che fosse davvero la pianta più alta della Nuova Zelanda, visti i tempi rapidissimi con i quali crescono le piante alloctone, cioè le piante importate da altri paesi, proprio come le sequoie. La sequoia su cui ci siamo arrampicati infatti non poteva avere più di 150 anni, 180 anni, perché prima dell'Ottocento non erano state scoperte, figuriamoci se esportate. Ma l'esperienza è stata comunque straordinaria, anche perché condita da quel gusto del proibito che per un ragazzo di 21 anni è componente fondamentale di ogni impresa degna di essere ricordata. L'ultima pianta che mancava alla nostra ricerca era il Totara ed era disperso al centro della foresta, che per fortuna non era mai stata toccata dall'uomo se non per conservarla. Il Totara più vecchio dello Stato si stagliava sopra tutti gli altri già da lontano, sorpassando di oltre una decina di metri le piante che attorniavano. Dovevamo portare l'attrezzatura d'arrampicata in spalla lungo un percorso di cui ignoravamo la lunghezza e le possibili asperità. Inoltre, riuscire a vederlo da dentro la foresta non era facile, perché anche gli alberi intorno, seppure di dimensioni modeste rispetto al nostro obiettivo, erano davvero enormi. A un certo punto, un sentiero sbucò in una piccola radura, dove al centro si ergeva la pianta più importante che avessi mai incontrato. Fu una visione magica, ma fui costretto a riprendermi in fretta, perché a quel punto cominciarono i problemi. say about it, the better. Make it up as we go along. Feet on the ground, head in the sky. It's okay, I know nothing's wrong. Nothing. I got plenty of time. You got light in your eyes, and you're standing here beside me. I love the passing of time. Never for money, always for love. Cover up and say goodnight, say goodnight. Come ci si arrampica su un albero di quella straordinaria imponenza? Anche lanciare un sagolino non era semplice. La fitta chioma impediva di cogliere le dimensioni e i rami su cui passava la corda. Io e mio padre ci arrampicavamo comunque. La sensazione era di essere letteralmente circondati e abbracciati da questo enorme fusto che saliva dritto per una ventina di metri senza alcuna rastremazione. 4 metri di diametro regolari, quasi fosse passato per un compattatore. Durante la scalata, metà del mio campo visivo includeva solo le sfumature di questo tronco quasi argentato. Ma la sorpresa, lo stupore più grandi dovevano ancora arrivare. Infatti, a 20 metri, dove il grande tronco si divideva in 2 branche principali, trovammo il vero tesoro della foresta. Lì, in migliaia di anni, i sedimenti delle foglie e dei rametti avevano dato origine a un fenomeno rarissimo, la cosiddetta terra del cielo. Chiamata così perché non aveva mai toccato il suolo e si era originata tra i rami della pianta. Una terra completamente differente da qualsiasi altra, con caratteristiche diverse anche da quella che si potrebbe trovare in Amazzonia. In quella terra, composta solo da materiale organico decomposto, prendeva forma una foresta dentro la foresta. Insetti, microorganismi, vermi, larve, fiori e altre specie arboree crescevano in sintonia in quella microforesta, una specie di incubatrice di un nuovo mondo. Notammo addirittura un serpente, chissà in che modo era arrivato fin lassù. La cosa più stupefacente era che a terra dei fiori non c'era alcuna traccia, come se quello fosse l'unico ambiente in cui si poteva compiere il loro ciclo vitale. Chissà, forse era un ciclo vitale che si riproponeva in quel posto da centinaia e centinaia di anni. Oppure eravamo spettatori di qualcosa che non sarebbe più accaduto e che non è mai avvenuto prima. Ci prendemmo 5 minuti per contemplare quella cattedrale verde che ci circondava, rendendoci conto dell'impossibilità di riuscire a prelevare un campione delle foglie del totara. C'erano così tante piante e piantine da non riuscire a distinguere quale di quelle fronde che ci circondavano fosse davvero quella dell'albero su cui eravamo arrampicati. Decidemmo di non raggiungere la cima. Già così ci eravamo intromessi in un luogo che era celato ai più, senza invito, senza permesso. Ospiti poco rispettosi di una natura magica, di un luogo sacro dove si compie il ciclo della vita. Scendemmo lentamente, con l'accortezza di non rovinare nulla. Pensai di portare via un campione di quella terra mistica per poterlo analizzare e scoprirne le peculiarità, ma mentre mi accingevo a farlo, da sotto le foglie di una piantina fece capolino uno scorpione. Non aveva l'aria minacciosa. Quasi non si curò della mia presenza, tuttavia fu sufficiente per farmi arrivare il messaggio. Come se mi dicesse che non serviva, che avevo già visto più con i miei occhi che con i dati che avrei potuto ottenere dalle analisi. Rinunciai e scesi in silenzio. So I wrote it all in a letter. But I don't know if it came. The nurse, she likes my writing. Just like me, so that it won't get away. I won't be denied this time, for I go out of my mind over matters. Got my foot on the ladder and I'm climbing up to the moon. Thank you. got my foot on the ladder and I'm climbing up to the moon. Saturday in New York, they'll bring you by. We'll lay down on the grass. La storia quasi avvolta di magia che vi abbiamo appena raccontato l'abbiamo letta in questo libro che si intitola La timidezza delle chiome, scritto da Pietro Maroè, che sentiremo tra pochissimo, subito dopo Le strade in diretta. Era inevitabile, l'odore delle mandorle amare gli ricordava sempre il destino degli amori contrastati. E come certi odori, a volte solo le voci possono condurci dentro le vite. Mi hanno portato tipo anche una fascetta, quello me lo dovevo mettere quando uscivo di casa, per significare io appartengo a loro. Vite dimenticate nei faldoni dei tribunali o nelle periferie più trascurate, vite che aspettano solo di essere raccontate. Storiacce, i racconti di Raffaella Calandra, ogni domenica alle 21 su Radio 24 e in podcast su radio24.it. Linee d'ombra, storie dei nuovi vizi capitali. E il nuovo vizio capitale di oggi, l'avrete capito, è quello che abbiamo chiamato eccesso di velocità. E quindi vi abbiamo raccontato delle storie di lentezza. La storia di Alessandro, che ci parlava del piacere di ascoltare i vecchi dischi, gli LP, e la storia di Pietro Maroè, che, come vi anticipavo, è un arboricoltore, è un ragazzo che lavora e vive con le piante. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo un paio d'anni fa proprio per parlare di questo suo libro che si chiama La timidezza delle chiome, da cui abbiamo tratto quella piccola storia. E quindi insieme a lui ci siamo arrampicati sulle piante più antiche e più alte della Nuova Zelanda. Se però avete voglia, potete leggervi anche L'azzurro infinito degli alberi, che è uscito invece un anno fa e racconta la storia di Pietro. Pronto, ciao Pietro, buongiorno. Ciao Matteo. Come stai? Sentirti benissimo, grazie. È un grande piacere anche per me. Sei coi piedi per terra, spero, in questo momento. Sì, per fortuna. Senti, ogni quanto ti arrampichi sulle piante? Tipo in una stagione come questa, in inverno, che cosa fa uno che fa il tuo lavoro? Si arrampica. Ovviamente. Della serie che comunque il nostro lavoro in realtà non si ferma mai. Diciamo che a seconda delle stagioni puoi avere un tipo di lavoro piuttosto che un altro, ma non ci fermiamo appunto. Ci sono delle potature che vengono meglio se fatte in inverno, altre che vengono meglio fatte in estate. Per i trattamenti invece privilegiamo primavera e autunno. Pietro, se uno ti chiedesse, uno che non sa cosa fai e non ti conosce, ti chiedesse che lavoro fai, tu in poche parole come lo descriveresti? Allora, io sono un arboricoltore e quindi praticamente mi occupo di curare le piante, gli alberi soprattutto. Mi piace soprattutto lavorare con questi esseri enormi, spesso e volentieri vecchissimi, proprio perché ritengo che abbiano molto da imparare, noi da loro. Mm-hmm. Proprio perché... se guardiamo anche soltanto da una linea evolutiva, loro sono qui da 350 milioni di anni. Ne sanno un po' di più, tu dici. Esatto, insomma, se Darwin aveva ragione e sopravvive il più adatto, le piante sono sicuramente ciò di quanto più adatto questa terra abbia mai visto. Quindi possiamo solo che avere da imparare, ecco. Senti, che cos'è un albero, una pianta monumentale? Allora, anche lì la monumentalità di un albero è un concetto... che cambia a seconda del posto in cui sei. Qua in Italia abbiamo 7 criteri per definire un albero monumentale. Un albero può essere monumentale per età, per dimensioni, per caratteristiche sue, della serie, la sua architettura, la sua forma particolare rispetto alla specie o in generale, oppure può essere anche un albero ad alto valore storico, ad alto valore paesaggistico. Tutto questo può contribuire a rendere un albero monumentale. Se invece ci spostiamo oltre il confine e andiamo in Inghilterra, allora quello che in Italia è un albero monumentale diventa un albero veterano, che non necessariamente rispetta quelle caratteristiche che ho detto prima, ma semplicemente deve avere la caratteristica di essere un superstite, cioè essere sopravvissuto a degli eventi traumatici ed esserne uscito vincitore. E parliamo di incendi? Di... Possono essere incendi, possono essere fulmini, possono essere rami che si spezzano e cadono. Malattie? Sì, malattie, problemi a cui comunque la pianta è riuscita pian pianino a far fronte e a venirne fuori, uscirne vincitrice da questa competizione. Chiaro. Pietro, prima abbiamo raccontato la storia della tua trasferta in Nuova Zelanda, era il 2013 mi sembra ricordare, quindi era qualche anno fa, e racconti appunto la meraviglia di queste piante, di questa terra del cielo, e davvero ci porti a 70 metri di altezza e vediamo quello che vedi tu. A un certo punto racconti di questa sorpresa, dici non solo abbiamo visto un serpentello girare su quei rami a quelle altezze, ma quando sto per prendere la terra per analizzarla spunta uno scorpione. In mezzo alle piante, in mezzo ai rami, quante sorprese si trovano? Tutti i giorni e di tutti i tipi. Allora, devi pensare che spesso e volentieri vediamo gli alberi come una cosa non viva quasi, come potrebbe essere un lampione, un palo della luce, mentre in realtà ogni albero, proprio anche riguardo a quello che dicevo prima, l'albero veterano, è un albero che ha all'interno di sé tutto un ecosistema, della serie che, tornando all'albero veterano, le sbrancature, i buchi che vengono fatti dai picchi, le rosure che vengono fatte sul legno marcio, tutto questo contribuisce a creare un intero ecosistema sull'albero, su un singolo albero, che a quel punto lì diventa fonte di sostentamento per tutto un micro habitat che lo circonda. Quindi animali, animaletti, altre piante? Altre piante, altri funghi, saprofagi. Cos'è un saprofago? Cos'è? Sono degli insetti che si mangiano le carcasse. Ok. Insomma, noi davvero ci piacerebbe parlare di alberi ancora per un po', ma purtroppo non riusciamo a farlo. Se avete voglia però di leggere le cose che scrive Pietro, potete leggervi o La timidezza delle chiome o L'azzurro infinito degli alberi, e poi seguirlo sicuramente, lo potete trovare in giro, che racconta quello che fa e lo racconta benissimo. Grazie mille a Pietro Marrè, buona giornata Pietro. Grazie Matteo. A presto, ciao. Giunga, giunga, giunga, giunga, giunga. Allora per trovare la viva mia, andava a cento allora per cantare la serenata, blem, blem, blem, blem, blem, blem, blem, blem. E non vedevo l'ora di baciare la bocca sua, ma si brucia il motore nel bel mezzo della via, blem, blem, blem, blem, blem, blem, blem, blem. Amore, aspettami, corro a piedi da te. Ricordiamo che le scelte musicali sono a cura del nostro Luca Micheli, lo ringraziamo per questo pezzo che è azzeccatissimo ovviamente per il tema di oggi, che è diciamo il vizio capitale dell'eccesso di velocità, e ci porta in qualche modo, visto che parliamo di velocità, anche se la storia seriale che vi raccontiamo è dedicata all'ira, la storia di Giorgio Bazzega che vi stiamo raccontando da un paio di settimane, in realtà la vita che Giorgio faceva e che ci racconta benissimo in questo episodio faceva della velocità quasi un culto. Perché il paradosso di questa roba qua è che io sapevo che sarei tornato a farmi. Lo sapevo. E mi sono sentito un fallito sempre. Ho iniziato a farmi anche più pesantemente di prima. Io non vedevo l'ora di tornare a fare. Cioè, mi ero rotto il cazzo di non far niente. Io volevo uscire la sera, divertirmi. Anche perché nel giro che avevo io di sera, cioè, io giravo con la Milano bene. Se c'era cocaina in tasca, io portavo a casa una modella una sera sì, una sera no. Cioè... non era una bruttissima vita per un tossico, cioè non facevo la vita del tossico da sotto il ponte, capito?